C'è un manifesto pubblicitario sui muri cittadini che ogni volta che lo vedo mi irrita enormemente. È quello, per intenderci, è quello che vanta l'avvenuta o imminente trasformazione editoriale del quotidiano Il Giorno, esibendo sopra lo slogan Il Giorno sta cambiando, o anche Il Giorno volta pagina, seguitelo, l'immagine del nuovo direttore Paolo Liguori, che brandisce, sorridendo, una copia di Detto Quotidiano con il titolone a piena pagina Paghino anche i ricchi. Ecco, vedete. Come fosse mo che il tempo si avvicina. Quell'immagine mi irritava già prima, perché supponevo che l'invito a far pagare anche i ricchi fosse supposto provenire in qualche modo dal nuovo direttore, che, avendo notoriamente alle spalle tutta una carriera di militanza nel partito della Lenticchia e una lunga esperienza nelle sue peregrinazioni da Volta Continua al Giornale di Montanelli, al Sabato, al Giorno, di Volta Gabbana al servizio del padronato, poi laico, poi religioso, mi sembrava la persona meno adatta ad esprimere questo importante messaggio morale. Avevo persino supposto tempo addietro che quello fosse un titolo costruito ad hoc da un'agenzia di pubblicitaria, quella che ha curato la campagna. Poi un nostro ascoltatore, il benemerito Roberto Calmi, che oltre a essere un fedelissimo della nostra trasmissione, a cui ha segnalato in passato preziosi argomenti di analisi, deve essere anche dotato di una vista che neanche un falco, ha richiamato la mia attenzione sulla data del giornale e sui testi che accompagnano il titolo in questione. Così ho scoperto che quel numero del Giorno è effettivamente uscito in data 4 agosto ultimo scorso, che l'invito ai ricchi a pagare anche loro viene attribuito, come risulta senza dubbio alcuno dall'occhiello, al Presidente della Repubblica Scalfaro, che in questi termini aveva richiamato il Presidente del Consiglio e i Ministri finanziari dopo il ben noto accordo del 31 luglio sul costo del lavoro. Allora, naturalmente, appresa questa cosa, mi ero incazzato ancora di più, perché l'invito in quel contesto rientra nella serie "per adesso pagate voi, ma in futuro pagheranno anche loro", che è un classico dell'argomentazione falsamente consolatoria. Però ammetto che è un'argomentazione tanto diffusa che non è il caso di addebitarla a Paolo Liguori e neanche al Presidente della Repubblica Scalfaro, che in fondo non fa altro che coniugare il suo ruolo di uomo simbolo del rinnovamento della classe politica con i suoi doveri di cristiano che prescrivono di consolare gli afflitti. E prima il dovere, dicevano i nostri maggiori, e poi il piacere. Prima si fanno i compiti, poi si va al cinema. Prima c'è il risanamento economico, poi c'è la riforma. Prima eliminiamo questo problemaccio del costo del lavoro e poi pensiamo alla giustizia sociale. È quella che credo si chiami la politica dei due tempi, attestata fin dai tempi biblici dell'Ecclesiaste, Ecclesiaste che assicura che c'è un tempo per piangere e un tempo per ridere, anche se non scrive da nessuna parte che a piangere dobbiamo essere sempre noi, a ridere devono essere sempre gli altri. Però questo non c'entra. Quello che invece raccomando alla vostra attenzione agli analisti è il catenaccio, il breve riassunto che figura sotto quel titolo. Perché udite udite, il catenaccio del titolo "Paghino anche i ricchi" in data 4 agosto sul quotidiano Il Giorno suona: dopo l'accordo sul costo del lavoro la borsa vola e la lira recupera, Banca Italia riduce il tasso di sconto che aveva appena aumentato, chiuse le virgolette. Notizie del 4 agosto, un mese scarso dopo la quale data, come tutti noi per nostra ahimè esperienza sappiamo, la lira è andata a picco, svalutandosi di un 20% abbondante e bruciando nel processo ingenti risorse valutarie. La borsa ha raggiunto il suo minimo storico e il tasso di sconto è andato, non diciamo alle stelle, è andato più in alto che così non si poteva, tanto è vero che anche se in seguito è stato leggermente ribassato, attualmente è a livelli ben superiori a quelli che era allora. E naturalmente grazie all'accordo sul costo del lavoro e ai successivi interventi del Presidente del Consiglio Amato e di tutti gli altri, tutto ciò significa che a pagare siamo sempre noi. Insomma, il ragazzo Liguori ha debuttato nel ruolo di direttore del Giorno con un bel esempio di falsificazione a scopi propagandistici e anche il coraggio di esibirla per le vie cittadine. E non è mica un incidente, eh? La campagna pubblicitaria è scattata in ottobre, quando la svalutazione della lira e il crollo della borsa erano già dei fatti assolutamente acquisiti, e l'assoluta mendacità, o vedete voi la scarsa preveggenza di quel catenaccio, non può essere considerata un incidente di percorso. Il fatto è che quel titolo, visto da lontano, andava piuttosto bene. Paghino i ricchi, ciusca, senz'altro. Ed è raro che la gente vada a controllare le parti stampate in carattere piccolo, e non tutti evidentemente hanno l'occhio d'aquila del nostro amico Roberto Calmi. Però in questo contesto l'invito a seguire il Giorno che cambia ricorda un po' l'invito rivolto ai bambini di Hamelin a seguire il celebre pifferaio. Poi c'è una seconda affiche che mi tormenta da qualche giorno. Non ha niente a che vedere con il pluriesibito faccione del plurivoltagabbana Paolo Liguori. È una semplice immagine, l'immagine di una giovane donna con una strana espressione di rapimento estatico sul volto, che campeggia sulla misteriosissima scritta «Anche le stelle usano i panni di Anex per brillare così, punto di domanda». Anche le stelle usano i panni di Anex per brillare così. Io ci ho lavorato molto, ci ho pensato e ho desunto con un certo sforzo che quella è una mamma, la giovane donna è una mamma, che la sua espressione di compiacimento e la frase successiva è supposta come pronunciata dal di lei bambino, e che di conseguenza lei è compiaciuta per la poetica ingenuità della sua osservazione. Mamma, anche le stelle usano i panni di Anex per brillare così. Capite, il concetto è che le stelle brillano, le superfici ripassate con i panni di Anex anche, e i fanciullini nella loro beatissima ingenuità sono capaci di pensare che tra i due brilli esisti un qualche collegamento. Questo dopo, naturalmente, nella mente malata di colui che ha concepito la campagna pubblicitaria, perché da un punto di vista più banalmente semantico si tratta di due usi diversi del verbo brillare, uno dei quali affatto metaforico, e a nessun fanciullino, credo, verrebbe in mente di eseguire un'associazione mentale di questo tipo. Bisogna essere pubblicitari e anche di una specie abbastanza abietta per scendere tanto in basso. Io vi dirò personalmente, sono abbastanza sicuro che se una giovane madre udisse il suo pargolo pronunciare un rimarco del genere, se ne preoccuperebbe moltissimo e ricorrerebbe istantaneamente ai servizi di un buon consigliere psichiatrico. Però che i bambini nella loro ingenuità siano capaci di espressioni di atteggiamenti pieni di un'incantevole poesia è un concetto tanto falso quanto diffuso, per esempio è sancito a livello di storia da vedere in una famosissima pagina di Giovanni Pascoli, che di bambini naturalmente non aveva esperienza alcuna, e non c'è pubblicitario disposto a rinunciarci. L'innocenza asserita dei pargoletti ha l'ovvia funzione di copertura della calcolata malizia del mercato, i cui obiettivi prescindono, come già spesso abbiamo notato, dalle esigenze del consumatore e quindi vanno validificati con qualsiasi strumento ideologico casualmente a disposizione. Ma tutto c'è un limite, naturalmente. Io non ho esperienza diretta di bambini. Sono disposto a credere che le povere creature siano capaci di tutto, persino di infilare surrettiziamente dei maccheroni crudi nella tasca della giacca dei genitori in partenza per terre lontane. Ma che affermino che la lucentezza delle stelle dipenda dall'applicazione del panno di Anex, proprio no. Tra l'innocenza e la demenza esiste una ben precisa linea di demarcazione.